che mondo, mondo è stato, non è mai accaduto che morisse lavorando un cavaliere del lavoro. Da che mondo, mondo è stato, non ho visto mai andare in galera un padrone che ammazza chi lavora. A morire nei cantieri, nelle fabbriche in miniera, sono sempre gli operai, manovali, muratori. È la legge del profitto, è il più misero ingranaggio, quel che poco niente vale, resta sempre il manovale. E se muore un operaio, al suo posto ce n'è un altro, ci sta sempre il meridione, la riserva del padrone. E se muore un operaio, poco importa al suo padrone, qualche soldo, un telegramma d'infinita commozione. Un discorso commovente del buon prete ai parenti, che ha già dato la soluzione a quel dritto d'un padrone.